Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. I love those jingle bells. Oh, those holiday jingle bells. Oh, those happy jingle bells. I love those jingle bells. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Un 24 dicembre di tanti e tanti anni fa, il vecchio Paperon Scrooge sedeva accigliato nel suo povero ufficio di cambiavalute. Scrooge, domani è Natale. E io mi ritrovo di un anno più vecchio senza essere di un'ora più ricco. Fin dei conti, Natale è solo un giorno come tanti altri. Non capisco perché tutti si facciano prendere dalla frenesia dei regali e degli auguri. Tutto questo è veramente assurdo. Signor padrone. Cosa vuoi? Perché non sei al lavoro? Oh, ho tanto freddo. E allora? Vorrei un po' di carbone per il mio caminetto. Cosa? Sai quanto costa il carbone? Guai a te se lo tocchi. Ma... ora basta. Hai perso fin troppo tempo. Ti detrarrò 10 minuti dallo stipendio. Sì, signore. Quante pretese. Un giorno o l'altro lo licenzierò. Poco dopo. Grazie. Di dove sbuchi, nipote? Cosa vuoi? Vengo ad augurarti un lieto Natale. Bah, sciocchezze. Non vorrei dire che il Natale è una sciocchezza. Sì, che lo dico. Lieto Natale? Che diritto hai di essere lieto? E tu che diritto hai di essere scontento? Non sei abbastanza ricco? Fai pure come vuoi. Ma lascia che io festeggi il Natale alla mia maniera. Vieni a pranzo da noi domani, così staremo insieme. Assolutamente no. Devo rivedere i conti, non ho tempo da perdere. Ma non vuoi proprio? Buonasera. Ma perché? Buonasera. Felice Natale, Bob. Altrettanto a voi. Con 15 scellini la settimana, una moglie e una famiglia da mantenere, il mio impiegato parla di lieto Natale. Anche mio nipote Paperino. Chissà cosa avrà da essere così felice per il Natale. Ma le tribolazioni del vecchio Paperon Scrooge non sono ancora finite. Abbiamo il piacere di parlare al signor Scrooge o al signor Marley? Rock Marley è morto 7 anni or sono, questa stessa notte. Scusateci, non lo sapevamo. D'altra parte sulla targa è ancora scritto Scrooge e Marley, allora... E allora? Sapete quanto costa una targa nuova? Mi avete già fatto perdere abbastanza tempo, si può sapere cosa volete? Ci rivolgiamo alla vostra, ben nota generosità, signor Scrooge. Generosità. Non capisco, deve certo esserci un errore. Queste sono le nostre credenziali, esaminatele. A che scopo? Non mi avete ancora detto cosa volete da me. Raccogliamo fondi per offrire cibo e generi di conforto ai poveri. È Natale, signore. E allora? Per che cifra posso iscrivervi, signor Scrooge? Per niente. Desiderate rimanere anonimo? Desidero essere lasciato in pace. Io stesso non festeggio il Natale e non intendo farlo festeggiare agli altri. Permetteteci di insistere. Non ve lo permetto. Quella è la porta. Non sapevo esistessero uomini come lui. Ha il cuore di pietra. Mi sento più allegro. Poco dopo. Signor Scrooge, cosa vuoi? Perché non sei al lavoro? La campana... Ah, è l'ora di chiudere. Immagino che domani tu voglia un giorno di libertà. E se non disturba troppo, signore? Disturba sì. Se lo trattenessi dal tuo stipendio, ti riterresti defraudato, no? Beh, infatti... Bella scusa per vuotare le tasche del prossimo ogni 25 dicembre, ma temo proprio di doverti concedere tutta la giornata di domani. Chiudi bene, spegni la candela e bada di essere puntuale dopo domani. Sì, signore, grazie, signore. Fuori la nebbia era fitta e il gelo si era fatto più intenso. Mi faccio strada, signore, per un solo penny. Scrunt, non ce n'è bisogno. Buonasera, Scrooge, cosa vi servo? Il solito, mezza porzione d'arrosto, pane secco e un bicchiere d'acqua. Ma oggi è la vigilia di Natale, pensavo che... Ho detto il solito. Scrooge, non vedo perché quest'oggi sia diverso dagli altri giorni. Sempre chiuso e solitario come un'ostrica quello Scrooge. Ora ti chiederai i giornali per leggerli gratis. Oste, giornali! Cosa ti dicevo? Pensare che con tutti i soldi che ha potrebbe fare tanto di quel bene... La borsa nuovamente in ribasso, domando io se c'è da stare allegri. Poco dopo... Buonanotte e buon Natale, Mr. Scrooge. Bah! Bussa mia! Che freddo! Buon Natale, buon signore! Scrooge, sciocchezze! Vi aiutiamo, signore! Per poi pretendere una mancia, eh? No, faccio da solo. Come volete. Non ho bisogno di nessuno io! Eccomi a casa, me la lasciate in eredità il mio socio Rock Marley. Tanto a lui non serviva più. Ma ecco che... Oh, Marley! Questione di un attimo, poi quell'immagine scompare. Che strano, mi era parso di vedere... Ma sciocchezze, la vista mi gioca dei brutti scherzi. Non avrò certamente paura di cose che non esistono. Però non mi sento tranquillo. Il buio mi piace, non costa niente, ma talvolta bisogna fare qualche sacrificio. Poi fece il giro della casa al salotto, niente. Al ripostiglio, nessuno. Fino alla camera da letto, niente e nessuno, nemmeno qui. Eppure in quella casa desolatamente vuota si udivano misteriosi fruscii. Sciocchezze, mi sono lasciato impressionare da quella visione di poco fa. Il vecchio campanello fuori uso incominciò a oscillare lentamente. Drrr. Cosa succede adesso? E ben presto trillò, imitato tutti gli altri campanelli della casa. Drin, drin, drin, drin, drin. Poi cessarono di colpo, mentre da lontano si sentiva un trascinar di catene. Poco dopo, il rumore era addirittura dietro l'uscio. Sciocchezze, non credo, credo ai fantasmi. E finalmente, attraverso la porta chiusa, un fantasma! Dopo il primo attimo di paura, Paperon Scrooge si sentì stranamente calmo e parlò caustico e freddo come sempre. Cosa vuoi da me? Molte cose. Chi sei? Domandami chi sono stato. Chi sei stato allora? In vita sono stato il tuo socio Rock Marley. Puoi sederti? Lo posso. Tu non mi credi, vero? No. Sei certo frutto di un incubo o di un'indigestione. È questo che pensi? Sì. Ne sei proprio sicuro? Sì. Guardami meglio. Ah! Ora credi in me o no? Sì, sì, pietà. La vedi questa catena? Rappresenta ciò che aveva importanza per me nella vita. Denaro, cassette di sicurezza, libri massimi e documenti legali. Io me la sono forgiata anello per anello, metro per metro. È una catena pesantissima. Mio vecchio Rock Marley, dimmi qualche parola di conforto. È ben poco quello che ho ancora il permesso di dirti. Non posso fermarmi, non posso indugiare, non posso riposare in alcun luogo. Sei morto già da 7 anni, eh? Per tutto questo tempo non ho mai avuto pace, soltanto l'incessante tortura del rimorso. Il rimorso di essere vissuto senza fare mai del bene, senza aiutare gli altri. Adesso perché sei qui? Sono stato accanto, invisibile, per 7 anni e ti ho visto fare gli stessi miei errori. Questa sera sono qui per avvertirti che hai ancora una speranza di sfuggire al mio stesso destino. Sei sempre stato un buon amico per me. Te ne ringrazio. Tu sarai visitato da 3 spiriti. Sarebbe questa la speranza che mi hai promesso? Sì, questa. Ne farei a meno. Senza la loro visita non avresti la possibilità di salvarti. Voglio evitarti le mie sofferenze. Grazie. Aspetta il primo spirito stanotte, quando le campane batteranno l'una. Il secondo verrà la notte seguente alla stessa ora, e il terzo l'altra notte ancora, quando le campane batteranno l'ultimo tocco delle 12. Non potrei riceverli tutti e tre insieme e farla finita? No, è impossibile. Poi lo spettro si allontanò camminando verso la finestra che ad ogni passo si apriva un poco. Non ci vedremo più, Paperon Scrooge, ma per il tuo bene ricorda ciò che ti ho detto. Aspetta, io... Ai, ai, ah, me misero. Scomparso lo spettro di Rock Marley, Scrooge corse la finestra. Doppio ulp. Ahimè, perché? Perché non ho aiutato quella poveretta? Oh, oh. Quei signori li conoscevo quasi tutti. Erano un po' come me, ecco. Poi tutto tornò come prima, i fantasmi svanirono. La nebbia ne inghiottiti. O era soltanto nebbia ciò che ho visto? Sciocchezze, soltanto sciocchezze. La porta è sempre chiusa a chiave e il catenaccio tirato. Tanta era la stanchezza che Paperon Scrooge si coricò senza spogliarsi e cadde in un sonno profondo. Sì, soltanto sciocchezze, io ho un gran bisogno di riposo, sono Le 12. Impossibile, l'orologio della torre deve essere guasto. Don don don. Strano, sono proprio le 12. Eppure stanotte sono andato a letto alle 2. Dovrei aver dormito un'intera giornata e poi un altro pezzo di notte. È impossibile. Non può neanche essere mezzogiorno, vediamo. Ma la città era immersa nel buio. E non c'era segno di vita nelle strade deserte. Non c'è dubbio, è veramente mezzanotte. Non so come e perché ciò accada, ma devo arrendermi all'evidenza. Più penso e più mi sento perplesso, più cerco di non pensare e più penso. È stato un brutto sogno, non può essere che così. Lo spettro di Rock Marley, gli altri spettri, tutto un sogno. Poi il campanile incominciò a battere i quarti. Primo quarto, secondo, terzo, din don, din don. I tre quarti, tra poco è l'una. Secondo quanto mi ha detto Rock Marley, sto per ricevere la visita di un fantasma. Don, don, don. È l'una e non è successo niente. Sono stato uno sciocco a preoccuparmi. Deve essere stato proprio un incubo. Sei tu lo spettro che... Sì, sono il fantasma dei Natali passati. E qual è lo scopo della tua visita? Il tuo benessere, naturalmente. Dirò meglio, la tua conversione. Vieni con me. E dove? A quest'ora di notte, con questo gelo? Vieni, sbrigati. Ma io sono vecchio, potrei cadere. Non aver paura, con me potrei superare prove maggiori di questa. Conosco questo posto. Sono stato ragazzo qui. Conosci la strada? Certo, potrei percorrerla a occhi chiusi. Strano che tu l'abbia dimenticata in tutti questi anni. Dovevo lavorare, pensare ai soldi, portare avanti la ditta. Capisco, non avevi tempo. Quei ragazzi sono soltanto le ombre di quello che furono. Non possono accorgersi di noi. È Natale, viva, allegria! Li riconosco, conosco tutti i loro nomi. Erano miei compagni di scuola. Tony Britt, Charles Wilkins, John Raymond. Come state? Buon Natale, altrettanto a te, auguri, lieto Natale. Dimenticavo che non possono vedermi. Natale, Natale, Natale. Sì, cos'è stato il Natale per me? La scuola non è ancora vuota. C'è rimasto un bambino solitario abbandonato dai suoi amici. Sì, lo so. Si avviarono per un ben noto sentiero e raggiunsero la scuola. Vuoi che entriamo? Sì. Lo riconosci? Quello ero io. I miei compagni mi lasciavano sempre solo. Io cercavo compagnia nei libri. Ero molto triste. So, povero bambino. Piangi per lui? No, per il bambino che ieri voleva aiutarmi a rialzarmi e io l'ho trattato male. Capisco. Andiamo un altro Natale? Sì. Conosci questo luogo? Sì, ci sono stato come apprendista. Conosci anche quell'uomo? Certo, il vecchio Fitzwing, il mio principale. Ehi, laggiù, Paperon Dick! Sì, padrone. Comandate? Dick Wilkins, sicuro. Era tuo amico? Sì, era il mio unico amico. Ma poi ci siamo persi di vista. Gli affari, la carriera. È la vigilia di Natale, niente più lavoro. Stasera andate a casa. Grazie, signor Fitzwig. Evviva! Ecco a voi, una mezza corona ciascuno per festeggiare. Grazie, signor Fitzwig. Grazie, signor Fitzwig. Buon Natale. Lieto Natale, signor Fitzwig. Sì. Perché sospiri? Vorrei essere stato più gentile col mio vecchio impiegato. Tutto qui. Adesso andiamo. Dove? Quasi per magia, la scena cambiò. E anche il tempo non era più quello. Chi è quella ragazza? E perché piange? Era la mia fidanzata. Sì, non importa, sono rassegnata. Una volta c'ero io sola nel tuo cuore, ora non più. No, io sono sempre quello di una volta. Ti sbagli, quando ci siamo fidanzati ero un altro uomo. Ero un ragazzo. Un ragazzo giovane e povero, ma eri felice. Adesso invece sono solo diventato più ricco e più saggio. Più saggio? No! Tu ti sei fatto schiavo dell'interesse, del guadagno! Perciò penso che sia ora di renderti la tua libertà. Te l'ho mai chiesta, forse? A parole no, mai! E in che modo, allora? Cambiando il tuo carattere, il tuo amore, le tue speranze. Adesso cercheresti di conquistarmi? No, mai! Sei tu che lo dici! Ne sono sicura, ed è per questo che ti rendo la tua libertà. Addio, se è questo che vuoi. Ti auguro di essere felice nell'esistenza che ti sei scelto. Sì. Spirito, portami via da questo posto orribile. Sono solo le ombre delle cose che furono. Portami via, non posso sopportare oltre. Non te la prendere con me se le cose sono andate così. Vattene, vattene, smettila di perseguitarmi. Non dimenticare mai quello che hai visto. Subito dopo, Paperon Scrooge ebbe la sensazione di trovarsi nel proprio letto e cadde in un sonno profondo. Sono esausto, non ne posso più. Un po' più tardi, mezzanotte! C'è una luce nel mio salotto, eppure io avevo spento tutto, me ne ricordo bene. Entra! Vieni avanti. Chi siete? Sono lo spirito di questo Natale. Prendi il mio mantello e andiamo. Uscire adesso? A mezzanotte? Ti sbagli, sono le 8. Ed è il mattino di Natale. Oh. Vieni, vedrai come sono tutti felici in questo giorno. Felice Natale, altrettanto a voi, buon Natale. Vedi? Oggi sono tutti felici. Sono felici perché su tutti io spargo la mia magia. Capisco, sei lo spirito natalizio. Ma ora è tempo che facciamo alcune visite. Dove andiamo? Poco dopo. Eccoci, siamo nel quartiere povero della città. Chi abita in questa casa? Entra e vedrai. Ma quello è il mio impiegato. Sì, con la sua famiglia. Parlate al signor Scrooge di quel piccolo aumento? No, non sono riuscito a trovare il momento adatto. Tu non riesci mai a trovare il momento adatto. Quell'uomo ti sfrutta. Cara, ti prego, non davanti ai bambini. Sai quello che penso di quell'uomo? Mia cara, ti prego, il giorno di Natale. Hai ragione, in fondo mi fa pena. Pur con tutti i soldi, è un povero infelice. Hai sentito? Ho sentito. Vieni, ora dobbiamo fare un'altra visita. Dove? Non molto lontano, sempre qui, nel quartiere povero. Qualcuno che conosco? Sì, lo conosci. E quella è la sua casa. Credo di capire. Mio nipote, riconosco la sua allegra risata. Diceva che Natale è una sciocchezza e ci credeva per giunta. Bella vergogna per lui. È sicuramente un tipo strano. Io non lo posso soffrire. Io invece non potrei essere in collera con lui, nemmeno se ci provassi. È troppo buono, marito mio, troppo! Lui non ha nessuna simpatia per te. Ha perfino rifiutato di venire a pranzo. Oh, non ha poi perso un grande pranzo. Sei proprio antipatico. Dovresti vergognarti di parlare così. Al contrario, è stato un pranzo squisito. Va bene, confesso di aver scherzato. Mi perdoni, cara. Non lo meriteresti, ma dato che è Natale. Buon Natale al vecchio zio Scrooge. Non accetterebbe l'augurio da me, ma possa esso giungermi in qualche modo. Sono commosso. Vorrei ricambiare l'augurio e ringraziarlo. Sai bene che non è possibile. Dan, dan, dan. Il mio tempo è finito. Senti la campana? Questi sono gli ultimi rintocchi. Ecco, io scompaio. Un terzo spirito verrà da te. Proprio come aveva detto il vecchio Rock Marley. Ed ecco avanzare verso di lui un'ombra che sembrava fatta di oscurità. Sei il fantasma dei Natali futuri. Ho paura di te, ma so che il tuo scopo è quello di farmi del bene. Sono pronto a venire con te. Non vuoi dunque parlarmi? Perché non rispondi? Ti supplico. La notte passa rapida ed è prezioso tempo per me. Guidami, spirito. Quasi per prodigio, si trovarono nel cuore della City, alla borsa degli scambi. Quando è morto? Ieri notte ho sentito dire. Che cosa ha fatto nel suo denaro? Avrà senza dubbio lasciato a mezza sua ditta. Certo, non l'ha lasciato a me. Nemmeno a me. Non ridere. Sai che era il suo più intimo amico? Davvero? Certo, qualche volta incontrandomi mi salutava. Questa è buona. Ma di chi stanno parlando e perché io non sono insieme con loro? A proposito, andare al suo funerale? Sì, se non avrò altro da fare. Poi il fantasma scivolò in una strada adiacente e indicò due uomini che Paperon Scrooge conosceva molto bene. Come stai? Bene, il vecchio taccagno ha avuto la sua, eh? Spirito, di chi stanno parlando? Forse qualcuno che conosco? Inutile, il fantasma continuava a tacere, ma gli fece cenno di seguirlo. Dentro la bottega di un rigattiere. Signora Dilber, ero sicuro che sareste venuta a trovarmi. Ma quella donna, io la conosco. Ebbene, avrò pure il diritto di pensare a me stessa. Lui non ha mai fatto altro. Proprio vero. Faceva le pulizie da me, ogni tanto naturalmente. Eh sì, ha avuto quel che meritava. Vorrei che avesse avuto qualcosa di peggio. Io non sento per lui né compassione né pietà. E tantomeno provo vergogna per averlo spogliato di quel poco che aveva. Poco? Sapete bene che era un terribile avaro e che teneva tutti i suoi soldi in banca. È vero. Comunque, è inutile perdere tempo in chiacchiere. Meglio aprire subito il fagotto. D'accordo. Spero proprio che mi farete un buon prezzo. Sapete bene che sono il rigattiere più onesto del quartiere. Adesso capisco, spirito. La sorte di questo poveretto potrebbe essere la mia. Ecco dove mi sta conducendo la vita. Ora che lo so. Tutto qui. Sapete bene, lui non amava il lusso. Mamma, quella è roba mia. Cosa significa tutto questo? Perché non rispondi? Perché? Pietà, spirito. Non sono più l'uomo che fui. Non sono più l'uomo che sarei stato. Promettimi che potrò ancora mutare le ombre che mi hai mostrato. Sì, lo potrai. Allora, c'è ancora qualche speranza. Quanto tempo ho ancora davanti a me per rimediare agli errori del passato? Non mi è concesso dirtelo, ma ricordati che potrai salvarti solo se sarai sincero nel tuo pentimento. Subito dopo, il fantasma scomparve e Paperon Scrooge si risvegliò. Lo farò, giuro che sarò più buono. Non lasciarmi, spirito, non lasciarmi. Dimmi cosa devo fare. Non c'è più. Se n'è andato. Forse era soltanto un incubo. In fondo potrei continuare la mia solita vita e... Ma cosa sto dicendo? Anche se fosse stato soltanto un incubo, mi ha fatto capire tante cose. Voglio cambiare vita. Sono sicuro che non è mai troppo tardi per farlo. Mi sento diverso, mi sento felice. Non so neanche che giorno è oggi. Non so quanto tempo sono rimasto con gli spiriti. Le campane, che suono meraviglioso! Non mi sono mai sentito così bene. Che giorno è oggi? Eh? Che giorno è oggi? Ma è Natale! È Natale! Non l'ho dunque perduto, gli spiriti hanno fatto tutto in una sola notte! Ehi, sali un momento, devo chiederti un favore, subito! Intanto scrivo l'indirizzo al signor Bob Cackwit, Camden Town 156. Signore, conosci la bottega qui all'angolo? Sì, signore, la conosco. Allora, compra il tacchino più grosso che trovi e tutto quanto serve per un meraviglioso pranzo di Natale. Questi sono i soldi. C'è anche la mancia per te. Grazie, signore. Farei ricapitare tutto a questo indirizzo. Va, corri, subito. Il mio impiegato si domanderà chi chi gli manda tutte quelle cose? Ora voglio uscire a godermi questa splendida giornata. Ho perso fin troppo tempo e ho ancora tante cose da fare. Indossato il più bell'abito che aveva in guardaroba, Paperon Scrooge uscì in strada. Un sole davvero magnifico! Din don, din don. Non mi era mai accorto che le campane avessero un suono così bello. Tutto è davvero meraviglioso! Oh, ecco quei signori che ieri sono venuti a chiedermi un aiuto per i poveri. Ehi signori, eh? Come state? Buon Natale! Bene, grazie, signor Scrooge. Temo che il mio nome non vi sia troppo gradito. Mi chiedo scusa per il mio comportamento di ieri. Questa notte però ho deciso di cambiare vita. Ma parlate sul serio? Naturalmente, io non scherzo mai! Anche se forse dovrei decidermi a incominciare. Deve essere divertente. Vi ringrazio, è davvero una grossa cifra. In quella somma sono compresi molti arretrati, ve lo assicuro. Venite pure a trovarmi, qualsiasi cosa abbiate bisogno. Sì, certo, verrò, grazie! E adesso dal mio caro nipote. Paperon Scrooge passò una dozzina di volte dinanzi alla casa prima di avere il coraggio di bussare. Alla fine si decise. È in casa vostro cognato? Sì, signore, in sala da pranzo con alcuni invitati. Vi accompagno. Grazie, conosco la strada. Entrerò da solo, mia cara. Nipote mio! Chi è? Sono io, sono venuto a pranzo. Posso entrare? Sei il benvenuto! Arrivi proprio in tempo, il pranzo è già in tavola. Mia cara, guarda chi c'è! Lo zio Scrooge! Non avrei mai... Scommetto che è solo venuto a scroccare il pranzo, vecchio avaro. Non l'avresti mai immaginato, lo so. Ti domando perdono. La vostra presenza è per me il più bel regalo di Natale. Vostra? Non potresti darmi del tu? Sì, se lo desiderate. Non lo desidero, te lo ordino. Qua un bacio. Un bel bacio anche a te, nipote. Disgustoso, davvero riprovevole. Qui, zio, al posto d'onore. Grazie, nipote. Questo sarà il più bel pranzo della mia vita. Purtroppo non ho molto da offrirti. Non preoccuparti, ci ho pensato io. Non dovevate, cioè, non dovevi. Era il minimo che potessi fare. Oh, incredibile. Fu davvero un magnifico pranzo, pieno di gioia e di allegria. L'avevamo mal giudicato, signor Scrooge. Non è colpa vostra, è stato tutto merito mio. Ora spero che vorrete scusarmi, ma... Vai già via? Sì, ho ancora tante cose da fare. Ma non preoccupatevi per me, continuate pure a divertirvi. Auguri, mille di questi giorni, buon Natale e felice anno nuovo! Non so come ringraziarvi, figlioli. Siamo noi che ringraziamo te, zio. Torna presto a trovarci. Se tornerò presto, prestissimo. E mai mani vuote, naturalmente. Poco dopo. Oh, signor Scrooge, sono lieto di vedervi. Anch'io davvero lieto. Perché mentite? Cosa intendete dire? Non capisco. Su via, capite benissimo. So cosa dite di me quando io non ci sono. Non è vero, ve l'assicuro, proprio così. Non importa, non importa. Comunque cercate di compiere delle buone azioni, altrimenti nessuno si ricorderà di voi. Meditate, gente, buon Natale! Cosa avrà voluto dire? Boh, non mi sembrava neanche il solito Scrooge. Ora non mi resta che cercare la signora Dilbert e... Ehi tu, avvicinati un momento. Dì da me. Certo, non sei forse tu che ieri volevi aiutarmi quando sono caduto? Sì, ma non lo farò più, signore, scusatemi. Sono io che devo scusarmi, ragazzo. Mi sono comportato male e voglio rimediare. Prendi e comprati dei regali di Natale. Grazie! Ragazzi, guardate, sono ricco! In fondo, costa così poco far felice qualcuno. Ora, davvero non mi resta che la signora Dilbert. Signora Dilbert, signora Dilbert! Chi è che? Sono io, signora Dilbert. Oh, signor Scrooge, volete accomodarvi nella mia modesta dimora? No, grazie. Volevo soltanto darvi la gratifica natalizia. La gratifica natalizia? Non me l'aspettavo, non merito tanto. Lo so, lo so. Comunque è meglio così. Preferisco donare adesso piuttosto che farmi magari derubare dopo. Quella notte Paperon Scrooge dormì come non aveva mai dormito in vita sua. Il mattino seguente andò presto in ufficio. Strano, Cratchit non è ancora arrivato. Le 9 e non c'è ancora. Le 9:15, tempo l'avrei licenziato per molto meno. Sono davvero mortificato, sono terribilmente in ritardo. Davvero? Avevo anch'io questa impressione. È la prima volta in 30 anni che lavoro per voi. Non vorrei che prendeste l'abitudine. Ieri abbiamo fatto un po' di feste, allora... Cosa? Una festa? È così che c'ha l'acqua del vostro stipendio? Beh, francamente il mio stipendio non me lo permetterebbe. Un ignoto benefattore ci ha fatto ricapitare un pranzo principesco. Sappiate che non sopporterò a lungo questo stato di cose, perciò... Non licenziatemi, vi prego, non accadrà più. E chi parla di licenziarvi? Voglio soltanto aumentarvi lo stipendio. Sblam! Oh. Sono senza parole. E allora non dite niente, non ce n'è bisogno. Ora ravvivate il fuoco e andate a comprare un altro secchio di carbone. Sì, signore! Ci sarebbero quelle pratiche urgenti. Ne discuteremo questo pomeriggio davanti a due calde tazze di tè. Troppo onore per me. Sarà un piacere, caro Cratit. A presto. Qualcuno forse non capirà questo mio mutamento, ma non me ne importa nulla. Ho deciso, sarò il migliore degli amici, il migliore dei padroni, il migliore degli uomini di questo vecchio mondo. Paperon Scrooge non ebbe più nulla a che fare con gli spiriti e visse a lungo. Of a white Christmas, just like the ones I used to know. ¶¶